quello vecchio c'ho tutti i componenti, invece per quella poi chi la sa fare è più facile, diciamo, come tutti, perché stavo leggendo nei forum e nelle cose, e io di elettronica non ne comprendo nulla, io sono portato alla meccanica, motori e che cose. In elettronica non ci capisco niente, perché non sono portato, da se devo cambiare una lampadina, un led, i figosi sì, però per il resto non mi dire a leggere circuiti e cose, perché non so come manco da ne entrare, da ne uscire. Sono rientrato, Sì, ragazzi. Allora, su quella radio devi tagliare quattro cose. Tre piedini devi tagliare. Tre piedini, capito? E sei a posto, e hai fatto tutto. Ma che radio è oggi? 48, quello che c'ha, gli ultimi sono usciti quelli col pomello nero, che c'hanno i pomellini neri, sono color ghiaccio. Ah, ok. E quelli lì avevo sentito che davano intorno ai 20-22 watt facendogli le modifiche. Anche 27 qualcuno, quasi a 30 qualcuno me ne è arrivato a me. Ne ho fatto, da poco ne ho fatto 4-5, anche l'altro giorno ne ho fatto uno a un amico. Me l'ha portato Massimiliano Soro e gliel'ho fatto a un collega suo. E gliel'ho fatto, gli ho fatto i filmati, però me l'ha cancellata, va, mi pare. Gli ho fatto anche i filmati da come era quando me l'ha dato, normale, 4 watt, e come ne saliva dopo. Allora, in poche parole, ti sale, tagli il primo filo, il primo coso, ponticello, e di colpo va a 10 watt di portante bianca. 10-11 watt, poi c'è il trimmer, se vuoi aprire, però poi va a storcere il radio e lascia stare così. Poi ci sono altre due cosette piccoline da tagliare, tre cosette piccoline da tagliare con la forbicina, con una trucchesina piccolina, io li taglio, i ponticelli, e va sul 45, c'è 120 canali, capito? Ti esce anche il numero 45, ti dà proprio il numero 45, fino a 80 arriva. Sì. Già l'avevo visto, le ultime serie, quelle con quelli salivano di watt, ne davano anche un bel di radio, E già, quello avevi preso a seconda mano, così è. Allora, il periodo che ero un esibito, sempre con parenti, erano 68, 48, li prendevo 40 euro, 50 euro. Invece quei due in scatola li ho pagati 70 euro spediti. Però, allora, uno è nuovo, che dice che non l'ha mai usato, per via 15 anni in garage. L'ho acceso e funziona, era perfetto. E poi l'ho rimesso nella scatola ed è completo di staffa, guide, filo d'accensione e idem l'altro. Però quello con la scritta 48 di nuova generazione, quello mi ha detto che l'aveva usato tipo un'estate, o magari l'ha trattato un po'. E poi niente, se ne aveva preso un altro e se ne era andato a Pavia questo ragazzo che era ad Alghero e me l'ha venduto. E ce l'ho nuovo nella scatola, l'ho acceso, è color ghiaccio, cioè i watt normali, originali, e niente. E quindi Luigi mi stava dicendo che quelli lì si buoni modificati, perché gli ho accennato io che avevo visto in internet che facendo un ponticello, tagliando un filo e delle altre tipo cosettine, lo faceva come ha detto Luigi. E niente, ce l'ho nella scatola, e magari se mi capita l'occasione, magari secondo quanto numero posso fare a Luigi, se ha modo di farlo, e se no, che ce n'è tempo, tanto lo può fare, glielo do e magari me lo fa, così magari mi metto l'adesivo, tipo ho gli adesivi di, cosa ce ne ho, ne ho uno di Lupin e l'altro non mi ricordo se era di Valentino Rossi. E le toglio a chi, dai, vedrai il vatto, il tutto che funziona bene, che c'è anche, come ha detto lui, il numero 45, è carino, dai, invece questo 68 di ore c'ha gli adesivi di Che Guevara, ed è personalizzato, stesso l'ho personalizzato io, ed è sempre completo di guida, staffa, microfono originale, cavo d'accensione originale da 2 mm, perché dice che se da 1,5 c'hai mezzo watt in meno, invece se da 2 mm il cavo d'accensione c'hai mezzo watt in più, in cui si disiani, da bui non lo so, Però i fili miei sono tutti da 2 mm originali. Sì. E quelli lì tieni, quelli lì fateli fare se riescono bene. Già sono radio belline. E a voi Gigi già è appassionato, già ce l'ha avuta qualche macchina da guerra. Così è. Positivo. No, ma guarda, è semplice, glielo puoi fare pure tu, guardo se c'ho qualche foto dove ho tagliato, dove ho fatto i ponticelli, tagliati, sono da tagliare tre cose, capito? Vedi la foto, tagli quello, al primo fai i fatti, ed è un filo verde, lo spezzi in due ed è a posto, e passa da 4 a 10 watt. E con picchi che non te ne dico nulla. Qualcuno mi è arrivato a 30 quasi. L'ultimo che ho fatto non è andato più, è arrivato a 25, però va bene, non sono tutti uguali a volte, però superano sempre tra i 22 watt, li superano sempre, capito? Eia, gappa. Buono, la scheda ecco, si andate. Vabbè, ma quello come si può fare nell'altro video dove si può mettere il beep, l'eco, colt, il doppio modulatore nell'altro video che è sempre uguale all'altro in scatola, che funziona bene, poi vanno solo sostituite le lampadine del frontalino che erano magari biadigli, oppure uscivano già così mezzo che non illuminavano un bel, mi capito? Sì. Capito. Oggi, ascolta, questa qua la radio come va bene? Sì, positivo, vanno bene, se no te l'avrei detto, va benissimo, no? Vanno bene, anche la sua sta uscendo bene, io la sento bene, capito? No, vabbè, questo qua è il 6009V, quel CRT, dai, gli ho fatto qualche modifica dal secondo menu per quanto riguarda l'emissione, e lo sto utilizzando lo suo mic originale. Sì, positivo. Poi non so se ti ricordi una volta, adesso non ne faccio più, una volta ti ricordi che facevo i microfoni, facevo col trim, regolavo, facevo un poco di casino, mettevo delle resistenze, delle cose, e facevo, per cambiare la tonalità, e cambiava, ma sai come cambiava di brutto la tonalità delle, ma sempre facevo un buchettino, dentro ci mettevo un trim, capito, per regolare e più la resistenza. Sì, già mi ricordo, lo facevi nei microfoni originali. Sì, positivo. Sì, già mi ricordo di tutte quante quelle cose, G. Già sono, dai, erano prove che sono andate sempre a buon fine, sono cose che bisogna sempre tenere a mente. No, io ho preso e ti ripeto, avevo comprato questa radio qua perché l'avevo sentita a Giulio Dollaro, e caspita, aveva una bella emissione, quindi ho detto quando è me la prendo, e ho preso questa serie V, questo 6009V, e poi spulciando in internet queste cose qua, c'è il modo per entrare sotto menu, tutta una lista di cose che puoi toccare e non toccare, e gli ho rivisto giusto dei parametri, ho segnato quelli originali, gli ho rivisto giusto l'intensità microfonica e la modulazione in AM e basta, no, non gli ho toccato altro. Poi lui caspita, questa radio qua lo stesso da 30 watt in banda laterale, 20 watt in FM, 18 in AM, già vanno bene, tanto poi i buoni, una volta che gli aggiusti la timbrica vocale del microfono, perché nel sottomenu puoi anche regolarli la modalità di emissione, capito, del microfono. Se io gli metto un altro microfono, io ho anche, avevo preso il K-Po, il microfono amplificato, ma non è non è come questo qua originale, capito? Quindi gli ho fatto dei parametri su interni, gli ho toccato questa roba qua. E va bene così. Vai Gianni. Certo. So così vedi, quando non li so fare è bello perché alla fine che dici che la tua funzione, che tu bomba, che tu andava a avere. E adesso la soddisfazione, anche soddisfazione personale, quando uno sistema un motore che per esempio arranca, che anda a tre, da buio, rubo le mano, si abbotteggia e alla fine tira di brutto. Siamo più o meno a livello di paragone così. Però, cioè, tornando al discorso che stavo dicendo a Luigi, che per esempio io non sono ferrato in elettronica, se non magari mi ero messo a fare tante cose, visto che però purtroppo non ho studiato, non sono portato e quindi non mi permetto. Magari mi butto giù una lampadina, di saldare una lampadina, se magari si vede una valvolina bruciata, magari la compro e la metto uguale nuova. Però non è che io sono portato nel valutare, nel cercare di capire come funziona, perché non ne so proprio leggere le piste, i circuiti, butti 0-0-0. E magari tu hai dei piedi rigorosi ed io non ci capisco niente, mi va tutto il cervello in fumo. Già, piano piano, facendo e prendi, ti pigli schede vecchie, come da circuiti stampati e cose, però dai, ma neanche io, mi faccio le mie cose, ma tutt'altro per lavoro, sono altro la radiofrequenza dalla elettronica normale, è un po' diversa, quindi... Io tanto da lavoro più o meno mi guardo le schede, logicamente sono riconosciuto un dio, lo zen, da una resistenza, da un transistor, da un condensatore, quella roba lì sì, cioè so usare l'oscilloscopio, so usare quelle robe, è proprio la base, però poi ti appassioni anche di altra roba e cerchi di fare qualcosa. Però sempre con le pinze, sempre usando la roba con le pinze, cioè pian piano, perché poi quando non conosci gli apparecchi, quando devi andare sempre con la calma e vedere un pochino, ma c'è gente che queste cose le fa tutti i giorni, delle radio, modifiche, le aggiunta, quindi sono nel loro settore, io mi occupo di altro, però un po' di elettronica almeno basilare, dai, la so leggere, almeno mi so leggere uno schema, poi bisogna stare sempre attento, perché con la corrente non si gioca, la corrente ha un coltello che non si vede, ha una pistola che non si vede e ti punta sempre a capo, E come si suol dire, quando si usa la corrente, sempre una mano in tasca. Signori, io devo chiudere momentaneamente, riprenderò tra un'oretta, ma adesso mi devo assentare. Quindi vi saluto e vi auguro una buona serata. E a chi stagiuisci devo andare a fare una commissione, quindi riprendo dopo, quando rientro. Gigi, grazie delle quattro chiacchiere, ci sentiamo alle prossime, dai, stammi bene, e buon inizio anno e buon proseguo d'anno. Non ci siamo sentiti per questa cosa, dai, alle prossime. Ciao Gigi, ciao Gianni, buonasera anche a chi all'ascolto. Io momentaneamente chiudo le trasmissioni. Vai Gigi. Dai, grazie di tutto Gabby, dai, sempre gentile. Va bene, dai, anch'io fra un po', anch'io devo assentare, attendevo poco la domenica, che è finita la braccia quasi, c'era il camionetto acceso, però devo andare a portare un po' di legna su a mettere nel cielo da cui pigliare un freddo. Va bene, dai, buon proseguo, buon tutto Gabby, dai. Avanti, vai già. E andare, dai. Ciao Gabri, buon proseguimento di serata e magari ci sentiamo più in là, se più tardi, o se no già avremo modo di sentirci, tanto io già ce l'ho quasi sempre accesa ogni giorno la radio, quindi se già ci sono sempre, dai. Allora, buon fare, buon proseguimento e già sentimi in tutto. Ciao Gabri. Capito, già, se fai quel lavoro a quel 48, però attenzione, succede che dopo non lo puoi attaccare il lineare perché c'ha 10 watt di portante, 10-11 watt di portante bianca, caricano dagli quando spezzi quel filo lì, Sì, lui, ho capito. No, ma se, come hai detto tu, una volta che fai quelle due modifiche, la radio viaggia alla grande, non ce n'è bisogno di mettere lineare. Tipo nel 68 lo mettevo perché cioè usciva abbastanza bene, però magari secondo chi c'era, quando c'era propagazione, allora attaccavo il lineare, tanto era 5 watt e allora me lo faceva salire di potenza e allora potevo anche parlare con quelli di Napoli, con quelli di Trieste, capito? Perché in estate c'erano molte persone che modulavano, quindi magari io dicevo, ecco, mi potete dare un radio Santiago, lui mi dice, sì, arrivi forte, e io da me dici, c'è una radiolina piccola, la Giudizio di Rubini si risulta con questo piccolo lineare, e se arrivo a tutto Zembo, mi dici. E gli dice, no, voce anche buona, mi dice, e gli va bene, grazie. E niente, e poi per esempio mi dicevano davvero, gli dicevo che ero dal Golfo della Genara, sotto Golfo della Genara, Sardegna, e addirittura stavo parlando con un siciliano che era tutta l'altra zona, e mi sentivo bene, e anche io lo sentivo bene. E niente, però era in estate. Adesso in inverno non ho avuto modo ancora di parlare con nessuno. E niente, qualche volta anche con qualcuno tipo polacco, con qualcuno della Germania, che però magari non lo so se magari erano qua in vacanza o eccetera. Però niente, Gabriele mi ha detto no, sono loro che stanno modulando, c'è propagazione e quindi riusciamo a trasmettere sia noi che loro. Tutto qua. E non avrò modo, se magari ti capitano le foto, magari le mandi a Gabrino e magari provo a fare, tagliare questo filo verde e poi tagliare quei tre piedini e se funziona bene è a bomba, lo busto buoni puro, va di nell'altra camera che ho qua, se capita che uso magari uno o l'altro e andare, e va bene lo stesso così. Tu dove sei modulando lui? Ottava, io sono Ottava. Ah, K, stavi anche l'altra volta, ci. Positivo, prima di avere un bel. Vabbè, io viaggiavo in camion e ce l'avevo perché ho fatto 40 anni da autista, io sono in pensione dal 2015, io, non sono tanto ragazzino. E il camion l'ho sempre avuto. Adesso c'è mio figlio, mio figlio ha 46 anni, va, non è neanche ragazzino lui, e lui ce l'ha in camion stesso. E K, è più o meno alla mia età, io sono del 77, ne ho fatto 48 il 27 di dicembre, quindi, capito, non sono piccolino neanche io. E niente, io ho avuto un problema strutturale alla schiena, praticamente avevo una vertebra che dice che era un po' criccata, mi hanno fatto spaventare, mani praticamente mi dovevo operare a Maragana, mi hanno operato e mani paccato, zinco verde, e non ne busso la vita perché mi viene male a fare tutto quanto, sono sempre pieno di dolori, e niente, sono sempre il sistema nervoso contratto e poi quando fa freddo e umido e come che senza mani mi fa zappito e quindi un giorno stavo sbirciando, c'avevo un armadietto, ho detto ma io lo chiedo che avevo quando ero ragazzo e c'avevo un Intec 500 nascosto lì, ci sono i bagli, mi piaceva scritto. E praticamente quella radio lì c'ha 200 canali, no, 120 canali, perché al cassino di mezzo che hanno scritto e fa tre scatti. E infatti mi hanno spiegato che il primo su c'è il canale normale, e il tassino di mezzo c'è i canali non so più alti, e l'altro tassino più in giù c'è i canali bassi. E quindi praticamente, anche se sul display non mi esce il 45, quando io metto il tassino sotto al numero 5 risulta sul 45. E niente, però non stava funzionando tanto bene, allora avevo preso un Alan 48, che poi non so cos'era successo, e allora la guida io ho cominciato, ogni tanto ne comprava uno, 30 zecchino, 40 io, che magari c'era scritto che li avevano in garage, che non avevano uscito l'accensione, volevano testarsi, e allora gli dicevo se me lo vendevano per 35 euro e me lo compravo, mentre arrivi lì l'attaccavo, lo bruvavo, si funzionava, allora lì lo smontavo i tappi, le guide, perché certi arrivavano con le guide e certi senza guide, senza staff. Allora mi verniciavo i tappi, li pulivo, me li facevo verniciare, allora veniva mio fratello, e poi mi facevo le mascherine con gli adesivi. Infatti ce li ho quasi tutti personalizzati, ce l'ho della bandiera federale dei Bodegliuc, poi ce l'ho di Benito Mussolini, tutto bianco, poi ce l'ho dell'Italia, ce l'ho del... cos'è l'altro? Di Joker, Joker Porto, violetto, con le luci gialle a quello lì, con i bottoncini trasparenti Colt che avevo comprato, e gli avevo messo i led gialli, ed è quello è fuori di testa, quando lo accendi pare un orologio ed è un bel bel due, però non lo uso perché vedo un po' strano che c'è una cataratta a un occhio e mi fa cieco, perché, e allora uso quello che avevo personalizzato di Che Guevara, che ha i bottoni normali, li ho fatti così fini cromati, e niente, e uso quello che è troppo dopo. E poi quando ho tolto il tappo ho visto che non aveva nessuna anomalia dentro, con tutte le fascettine originali, tutto bello pulito, dorato dentro, all'interno, senza nessuna variazione di saldature, oggi tu visto è perfetto. Anche c'ha addirittura c'ha una valvolina originale nell'S-Meter di fabbrica, se l'ho visto perché quando ho tolto il tappo, però è perfetto. Uno addirittura che serie 0 ed è 000 e ha 4 cifre di matricola omologata, ed è quello di Bodegliuc, quello lì. È positivo, no, anch'io ce l'ho così, fate così, dai, cane, ho tutte illuminate, tutte pomelle trasparenti con le luci, addirittura a me cambia colore in continuazione, verde, giallo, rosso, blu, arancione, gira, fanno una compagnia di colori, e 48 ce l'ho in camion io. E io ce l'ho tutti così, ce li ho, tutti così, capito? Vabbè, dai, già, io ti devo salutare perché devo fare, portarmi un po' di legna sua al libro fuoco, se no è un casino, no? Va bene, dai, mi ha fatto piacere. Comunque, guarda, ci vuole 10 minuti a fare quel lavoro, capito? 10 minuti, vuole più tempo a togliere questi 4 viti di tappo, ma e poi entri dentro una cosa, taglia ed è fatto, e lo devi fare, e rimetti i tappi, se ti va più nulla, ed è a polso. Va bene, dai, se ti vedi con cosa con Gavino, già gli mando la foto a Gavino, io glielo. È semplice, è veloce da fare, capito? Andava bene, dai, anche a me ha fatto piacere fare questa conversazione, e sono contento, e va bene così, dai, ti lascio al tuo da fare, nel caso magari ci sentiamo in un altro momento, e già ce li ho sempre accese io le radio. Andate, dai, buon proseguimento di serata, lui se magari ci sentiamo più tardi o quando è già semeno. Andate, ciao, grazie mille. Ciao.